Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. 1978. Dall'Accademia di Belle Arti di Carrara mi trasferisco a Soriano nel Cimino. Vado a lavorare nelle cave di pietra. Sono cave povere e non è prevista la figura dello scultore. Devo accontentarmi della qualifica manovale di cava, 200.000 lire mensili. Mi chiamo Luigi Fondi, vivo a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, ho 60 anni e insegno in un liceo scientifico e la mia materia è disegno e storia dell'arte. Oggi è una bellissima giornata, nonostante il clima un po' autunnale, che peraltro rischia di rovinarci la partita di beach volley già prenotata da tempo da Paolino Corleoni al campi di Lorenteggio di Milano, perché sì, ci sono dei campi di beach volley a Milano. Nonostante questa giornata, così è una bellissima giornata perché potete farvi un regalo, potete fare un regalo a voi stessi e anche a qualcun altro in teoria. Potete scaricarvi gratuitamente l'ebook della terza stagione di Voi Siete Qui, che è stato rilasciato ieri o l'altro ieri, con la splendida copertina di Francesco Pini, che è tutta che sta per linee che si incrociano, sai, è come una specie di una roba che gira, detta così sembra una porcheria, in realtà è una copertina bellissima. Non è ancora sulle piattaforme quelle un po' più smargiasse, è su quelle un po' più cool come Ultima Books o Book Republic. Detto questo, se avete un profilo Facebook basta che andiate sul nostro profilo Facebook, che è Voi Siete Qui Radio 24, ci cliccate sopra e ve lo scaricate gratuitamente. Non è in versione PDF, è un ebook, quindi è in versione EPUB. Ci sono 97 storie, sono 97 tra le quasi 215, settimana prossima 215 210 storie che abbiamo raccontato in questa stagione. Sono comunque tutte belle, sono comunque, hanno sempre quel pezzo di umanità che ha a che fare con le persone che hanno avuto voglia di raccontare un pezzo della vostra vita. Mi ricordo qualche settimana fa di una persona che mi ha detto: sai che io mi ero scaricato l'ebook sul mio tablet e ce l'avevo lì, poi un giorno a mia moglie si rompono le acque, dobbiamo andare in ospedale perché lei è incinta evidentemente, se le si rompono le acque, e io prendo al volo questo tablet. Quando arriviamo in realtà la situazione è più lenta di quello che sembrava e io mi sono letto, nell'attesa che nascesse mia figlia, praticamente tutte le storie di Voi Siete Qui. Era il 2013, beh, caro amico di cui non ricordo il nome, perdonami, ci siamo incontrati un mese fa, Paolo, se per caso tua moglie è ancora incinta e è al nono mese di gravidanza, pensa come sei fortunato, puoi scaricarti il terzo ebook di Voi Siete Qui dal profilo Facebook di Voi Siete Qui, Voi Siete Qui Radio 24, ma anche da Ultima Book o Book Republic, a breve anche da Amazon, anche da Apple Store eccetera, iTunes Store, insomma in breve un po' ovunque. Però se volete proprio scaricarvelo per questa sera, che stasera cosa c'è? Belgio, sono partitacce stasera, Belgio-Algeria alle 18, poi alle 21 ce n'è un'altra che più tardi, insomma non sono granché come partite, quindi scaricatevi l'ebook. Se per caso non avete il modo per scaricarvelo, avete un modo per avercelo cartaceo: venite il 26 di giugno al live di Voi Siete Qui. Ci sono ancora davvero pochi posti, ormai manca quasi una settimana e di fatto li stiamo esaurendo, però potete ancora iscrivervi gratuitamente se avete deciso di farlo per il 26 di giugno, cioè giovedì prossimo sostanzialmente. Non sapete ancora cosa fare? Venite al live di Voi Siete Qui, ci sono 10 tra le storie che sono arrivate al nostro programma. Qualcuno mi chiede come l'avete scelte, di solito facevate un sondaggio e invece no, stavolta le abbiamo scelte noi, semplicemente abbiamo scelto 10 storie che sono arrivate insieme a me sul palco a raccontare, insieme a Paolino Corleoni ai tasti, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, a come sempre a curare la coreografia del tutto. Ci sarà Mauro Ottolini e i Sousaphonics che suoneranno dal vivo per il nostro live del 26 di giugno del 2014. Basta adesso farsi automaticamente della pubblicità, abbiamo parlato dell'ebook, abbiamo parlato del live, chiudiamo e cominciamo a raccontare la storia di oggi. Questa potrebbe essere una storia che è quasi, come diceva Tiziano prima, una storia di creatività non pagata. Sapete che ci sono insomma un po' di polemiche riguardo al fatto che ma come, le idee non vengono pagate? Ecco, questa cosa succedeva nel 1983, eccolo qua, nel 1983 a lui, al nostro protagonista di oggi che si chiama Luigi e che è uno scultore. Dall'Accademia di Belle Arti di Carrara mi trasferisco a Soriano nel Cimino. Vado, dopo molti mestieri che ho fatto per mantenermi agli studi, a lavorare nelle cave di pietra di Peperino Grigio e Rosa dei Cimini. Sono cave povere e non è prevista la figura dello scultore. Devo accontentarmi della qualifica manovale di cava, 200.000 lire mensili. Mi sposo, nasce Giuseppe, il primo dei miei due figli. È il 1983. Sono stanco di fare lo scultore con la paga di manovale. Provo a mettermi per conto mio. Partita IVA come artista, generico perché non è previsto un numero di partita IVA come scultore. Mi sento forte nella mente e nel fisico. Ho sia le idee sia il mestiere per realizzarle. Eseguo ristrutturazioni e restauri, lavori cimiteriali, fontane e cammini artistici, senza mai perdere di vista una ricerca personale di espressività. Qualche mostra in giro per l'Italia, ma la scultura in pietra non si vende. E troppo spesso mi succede quello raccontato da Gianluca Nicoletti nella sua trasmissione di qualche tempo fa, trattando il tema della creatività non pagata. Parlava appunto di questa cosa, cioè dei creativi non pagati, che sembra quasi che sia dovuto, no? In maniera quasi naturale, dice ho bisogno di questo, perché non mi fai per esempio un disegno per realizzare una fontana, oppure fammi un disegno per realizzare, come se questo disegno debba nascere da solo, insomma, senza nessuna fatica, senza nessuna pensiero. Nel 1983 si apre a Viterbo l'Università della Tuscia, agrarie e beni culturali. Un vecchio maestro scalpellino mi chiede una mano per il restauro di una porta storica all'entrata degli uffici amministrativi e di rappresentanza dell'università. Accetto con piacere. Non si trattava soltanto di restaurare e ripulire il trilite che deve sostenere il pesante cancello in ferro battuto all'ingresso del cortile di accesso all'università, ma anche di eseguire un bassorilievo in pietra, in peperino grigio, 120 x 80 x 12 cm, raffigurante una Madonna con bambino, effigie dell'ordine agostiniano. Il compenso per il rilievo è di 500.000 lire, prendere o lasciare. Io mi metto subito al lavoro con entusiasmo, prendo misure, eseguo disegni, discuto con il padre superiore dell'ordine, incaricato dei pagamenti e di seguire i lavori. Lui è un prete di grande cultura ed esperto d'antiquariato, ma è anche un grande paraculo. Il lavoro procede bene, dopo 20 giornate lavorative tutto è ultimato e pronto per la posa in opera. Il ponte di Canne Innocenti su cui salire non è molto affidabile e il rilievo va tenuto con la sola forza delle braccia. Devo fare molta attenzione a farmi forte dell'esperienza accumulata nei 5 anni passati in cava. Terminati i lavori finisco di stuccare e poi di lavare il bassorilievo. L'immagine della Madonna è perfetta dentro la nicchia che già esisteva a circa 8 metri di altezza dal suolo. Una volta a terra guardo il mio lavoro con sguardo critico, come faccio sempre ogni volta. Le proporzioni sono perfette e se non fosse per il colore più chiaro della pietra da poco tagliata, l'immagine sembrerebbe stare lì da sempre. Carries a good name. What would you ask a campfire? It scares me just the same. If I had known not to carry on that way, it wouldn't show. Sono soddisfatto di quello che ho realizzato. Ma la soddisfazione più grande è stata il riuscire, con i pochi soldi e i pochi mezzi messi a disposizione dall'università, a creare un ingresso, una porta accogliente che si inserisce e si integra benissimo con le altre strutture medievali della città di Viterbo. Tutti mi fanno i complimenti, anche se non mi invitano il giorno dell'inaugurazione, avvenuta la presenza del ministro della pubblica istruzione Rosa Russo Iervolino. In compenso, il rettore di allora mi invia un elogio scritto, un documento ufficiale con gli apprezzamenti della ministra e tutti i bla bla bla di circostanza, ma nessuna notizia del mio compenso. Vado a parlare di persona con il prete incaricato dei pagamenti. Il sacerdote fa strani discorsi e glissa sulla questione. Io gli dico con chiarezza il motivo della mia visita, aggiungendo che 500.000 lire per tutto il lavoro che ho svolto nella precarietà dei mezzi messi a disposizione dall'università sono una vergogna e una miseria. Ma se ho accettato la commissione è perché ho bisogno di guadagnare. Sono sposato da un anno con un figlio appena nato. Il prete fa ancora finta di non capire e continua con discorsi strani. Sai, sei un professore di storia dell'arte, alla facoltà di beni culturali, una figura come la tua potrebbe trovare un qualche incarico e io potrei raccomandarti al rettore. Io interrompo brutalmente e con sana incazzatura cristiana rispondo che se ho dovuto fare 5 anni di cava è proprio per colpa di persone che a seguito di raccomandazioni mi hanno fregato il posto nelle scuole d'arte dove sarei dovuto andare ad insegnare. Non fare agli altri quello che hanno fatto a te, pretendo i miei soldi. E a questo punto per me è diventata una questione di principio. L'ho conosciuto appunto quando lavoravo nella cava e mi chiese di realizzare con l'immagine appunto di questa Madonna con il bambino. E era da mettere all'interno di una nicchia all'ingresso di quella che poi era ed è ancora oggi gli uffici dell'Università di Viterbo. E infatti il lavoro ancora sta lì. Il padre superiore mi invita a ritornare, non ha soldi con sé e mi liquida infastidito. Passano le settimane, puntualmente ad ogni mia richiesta di pagamento ricevo scuse diverse. Fino a quando, ormai stanco e indignato per questa storia, una domenica mattina di fine giugno vado nel convento agostiniano annesso all'università. Chiedo del padre superiore. Sta celebrando la messa, entro in chiesa e mi siedo di fronte all'altare. Quando lo sguardo del sacerdote incontra il mio, gli faccio un cenno deciso. Deve seguirmi in sacrestia. Non ha alternative. Mi alzo e con rispetto, attraverso lo spazio liturgico, entro nella sacrestia. Il padre arriva dopo 5 minuti, prova a balbettare qualcosa, ma non gli lascio il tempo di dire nulla. Con voce ferma, calma e sicura di chi sa di stare dalla parte della ragione, guardandolo dritto negli occhi, gli offro 2 possibilità. Quella di darmi le mie 500.000 lire o quella di prendere 500.000 schiaffi. Silenzio. Io continuo a guardarlo sempre dritto negli occhi. Poi lentamente il prete alza le vesti cerimoniali, infila la mano destra nella tasca posteriore dei pantaloni, tira fuori il portafoglio, lo apre e con mano tremante e sempre in silenzio conta mentalmente il denaro e me lo porge senza guardarmi. Lo prendo senza contarlo, saluto e gli auguro di passare una buona domenica di riflessione. Lui, il prete, continua a non parlare. Solo quando sto per uscire dalla sacrestia, mi urla che ho sbagliato tutto e che ho perso una grande occasione. Mi fermo, mi volto e rispondo con una frase che da piccolo mio nonno materno mi ripeteva spesso. Chi non sa e non riesce a difendere il lavoro delle proprie braccia, è meglio che se le tagli. Non è da solo Luigi nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, voi siete qui sul sito di Radio 24, la nostra pagina, voi siete qui, scusatemi. È insieme a un'altra persona che so essere un artista e mi farò dire meglio da lui chi è. È molto più anziana di lui, lui gli sta indicando qualcosa perché si trovano, credo, davanti ad una sua scultura che, vista da questa foto, sembra veramente bellissima. Pronto Luigi, buongiorno. Buongiorno Matteo. Come stai? Bene, non c'è male, grazie. Mi racconti tu chi è questo signore con cui ti trovi? Questo è un grandissimo, uno degli ultimi scultori, diciamo, ancora operanti nel nostro territorio, si chiama Tito Amodei, è un padre passionista anche lui, ha 88 anni e ancora, insomma, diciamo, lavora, non fa lavori pesanti, però insomma, ecco. E siete a una tua mostra, giusto? Sì, questa è una mia ultima mostra che abbiamo fatto a Orvieto, noi siamo un gruppo di 4 artisti che abbiamo unito le forze e andiamo in giro a incontrare il nostro tempo, quindi siamo partiti da Fiuggi, adesso siamo arrivati, diciamo, a Orvieto, passando attraverso Gualdo Tavino e poi insomma il nostro obiettivo è Arezzo e poi Firenze, insomma vogliamo portare le vostre opere più o meno, le nostre opere e poi auspicare un nuovo rinascimento, anche se la parola è grossa, però insomma... Teniamo alto il tiro, giustamente. Ecco. Senti, che tipo di arte fai esattamente? Luigi, c'è una definizione per il tuo tipo di scultura? No, c'è una corrente? No, faccio un figurativo che riprendo dalla tradizione e poi mi piace sognare, mi piace inventare, quindi diciamo è un rinascimento dadaista. Mi piace la definizione, rinascimento dadaista. Che cosa lavori? Lavori la pietra? Lavoro tutti i materiali, diciamo, duri, quelli che mi posso permettere, perché il bronzo non lo posso permettere, che costa tantissimo. Certo. E quindi piacerebbe fare anche il bronzo. Quindi il tuo lavoro è un lavoro di fatica vera e propria, cioè lavorare una pietra come cosa, il marmo ad esempio? Lavoro durissimo, ma al tempo stesso bellissimo, cioè la durezza è bella, cioè è faticosa quanto la bellezza poi della realizzazione. Invece, scusa, torniamo indietro, il manovale di cava, questo primo impiego che hai avuto, in cosa consiste esattamente? Niente, il manovale di cava significa che tu devi andare giù nella cava, poi le cave del Viterbese sono diverse rispetto a quelle cararine, no? Perché nelle cave cararine bisogna essere mezzi alpinisti e salire sulle Alpi, anzi. Certo. Adesso ci sono. Invece questi bisogna scendere in basso perché si crea una specie di anfiteatro naturale, no? Ok. Quindi sì. E allora bisogna seguire il cavatore man mano che tagliava la pietra e raccogliere tutta la polvere, perché sennò il disco inceppa, no? E non riesci più ad andare avanti, quindi fare tutti quei lavori da cambiare il disco, insomma è un lavoro durissimo, fino poi a trasportare la pietra, a caricarla sui camion, insomma quindi proprio non ha nulla a che fare con lo scultore, è proprio un lavoro da manovale vero e proprio. No, non ha nulla a che fare, però è lì che si impara, diciamo, la materia prima, la conoscenza della pietra. Certo, perché sei al contatto quotidiano, certo. con il marmo, giusto? Nel ventre materno, insomma, il ventre della terra è come... Certo. All'interno, proprio, ecco. Certo, immagino. Senti Luigi, io sì. Purtroppo non ho tanto tempo, dov'è sì. Che possiamo vedere delle tue opere in futuro? C'ho un profilo Facebook. Ah, perfetto, dammelo. Fondi Luigi, la pagina Facebook. Benissimo, la tua. Guarda, adesso allora chiedo a Margherita di girarlo e di ritwittarlo, buonanotte, di pubblicarlo sul nostro profilo Facebook, così sì, tutti grazie. Quanti possono vedere le cose che fai. Luigi, grazie ancora della ciao. Storia e della chiacchierata. In bocca sì. al lupo. Sì, grazie a te, ciao. A presto, ciao. Ciao, grazie, ciao. È così. Chi vuole giocare, gioca. E non è che abbiamo finito di fare promozione, Ma c'è chi. Guarda, cosa siamo qui a fare, ragazzi? Di lividi non ne vuole più. Perché per tutto l'anno noi abbiamo fatto una cosa nuova. Ogni anno cerchiamo di inserire qualche pezzo in più. Abbiamo fatto dei live, dei concerti con dei cantanti che venivano qui e cantavano i loro pezzi. È così. L'ultimo live che abbiamo fatto è stato quello di Dente, che ci ha regalato mezz'ora della sua musica. L'abbiamo ripreso sempre in un video. Abbiamo fatto così con tutti gli ospiti. E lo trovate sul nostro profilo YouTube, o altrimenti tramite il profilo Facebook. Il live di Dente di circa un mesetto fa, grazie a Marco Ligabue che l'ha ripreso. Ha ripreso lui e tutti gli altri. Io vi ricordo di scaricare l'ebook e soprattutto di iscrivervi al live di giovedì prossimo. Non ci sono ancora tantissimi posti, ma forse riuscite a fare in tempo ancora a farlo tramite il sito di Radio 24 sulla finestrella blu live. Voi siete qui. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Luigi, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Guido e vivo a Torino. La storia di domani è la mia e parla di un assalto terroristico ad una scuola, una paraununiversità, durante gli anni di piombo a Torino. Questa è la mia storia e io sono qui.